cari amici, alla 11ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre, al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, e chiaramente questa puntata mi vede a farvi gli auguri di un ottimo anno politico 2017. Anno politico, è certo, perché chiaramente, come chi mi segue già sa, il mio pensiero sull'anno nuovo è un po' alla fine personalizzato, perché dal mio punto di vista il nuovo anno per ognuno inizia il giorno del suo compleanno, quindi mi piace definire l'anno nuovo, perché è quello globale, l'anno politico alla fine è normale che sia così, perché chiaramente c'è da mandare avanti il mondo intero con un certo ordine. È comprensibile che ci sia un momento fissato comune a tutti per cambiare il numeretto negli assegni, non lo so, oppure negli affitti o nei mutui che scadono o che vanno ad accendersi. Chiaramente è un anno è passato, quindi in questo momento cosa viene abbastanza normale fare? Viene un po' un resoconto, viene un po' tirare le somme, le fila di quelle che abbiamo fatto nell'anno appena trascorso, nel 2016, e quello che magari ci prefiggeremo di fare nel 2017. 2016, anno bisesto, anno funesto per gli amici delle cabale e delle superstizioni varie. Beh, da un certo punto di vista in effetti è anche vero, perché parlando in questi giorni con una persona mi faceva notare come in questo 2016 sono venute a mancare tantissime persone dello sport, dello spettacolo, della musica, soprattutto della musica. Mi viene da pensare recentissima la scomparsa del compianto George Michael, e chiaramente a lui si aggiungono mostri sacri della musica mondiale tipo Bowie o anche Leonard Cohen, che appunto hanno salutato il mondo terreno nell'anno politico 2016, ma non solo, io direi anche Bud Spencer, perché alla fine, Prince, chiaramente anche loro sono personaggi pubblici che hanno salutato il grande pubblico alla fine, sostanzialmente. Bene, sì, da un punto di vista, diciamo, sentimentale, non saprei nemmeno come definirlo, questa persona aveva ragione nel farmi notare questa cosa e notava chiaramente la filastrocca anno bisesto, anno funesto. Beh, però dal mio punto di vista non è nemmeno così vero alla fine, nel senso, ogni anno qualcuno muore, anzi molto più che qualcuno, e alla fine tante persone muoiono tutti gli anni, e se un anno è morto qualche cantante in più piuttosto che a qualche operaio della catena di montaggio in meno, non è che c'è da essere più tristi o meno tristi. Purtroppo la morte chiaramente è un momento di passaggio della vita di ognuno, e ognuno faremo i conti con la propria. Chiaramente però ognuno di noi fa anche i conti con quella di alcune persone che gli sono vicine, quindi la morte sostanzialmente non ha importanza, non guarda in faccia se una persona era un barbone che sta sotto il ponte o se era stato il presidente degli Stati Uniti. E qualsiasi cosa una persona abbia fatto in vita, al momento che arriva la morte, chiaramente per qualcuno sarà devastante, per qualcuno sarà una perdita gravissima, per qualcuno potrebbe essere una liberazione, e a volte magari per la persona che decede stessa è una liberazione. Però chiaramente non c'è da dare un'importanza più o meno alla morte in base a chi è, dal mio punto di vista. Comunque sì, è comprensibile che chiaramente nell'opinione pubblica la scomparsa di un personaggio famoso tende un po' a toccare un po' tutti. Ad esempio, che ne so, l'ultimo in ordine di tempo di persone famose a livello mondiale che sono scomparse, appunto George Michael, chiaramente per l'appunto beffa delle beffe da questo punto di vista, lui che canta Last Christmas, che è una delle canzoni di Natale più conosciute. È molto singolare che per l'appunto il destino abbia riservato a questo cantante britannico il giorno della sua morte, proprio il giorno di Natale. Quindi chiaramente tutto questo sui social ha scatenato una commozione, una partecipazione generale, che è una cosa della quale io sempre dubito. Ad esempio, cioè, alla fine sì, è vero, Last Christmas l'ho cantata pure io sotto la doccia o in piazza durante un concerto natalizio organizzato dal paese, però chiaramente chi lo conosceva George Michael? Sì, mi dispiace, è morto, ma alla fine Last Christmas, se io voglio continuare ad ascoltarla, continuerò ad ascoltarla, e mi dispiace per i suoi cari, per chi gli voleva bene, per chi lo conosceva, non è che dispiace a me. Ecco, e qui ora tutta la gente che sui social network e quelle, quando è morto David Bowie è successo lo stesso, e Bud Spencer, è lo stesso discorso, cioè sono persone che hanno segnato chiaramente la vita di tante persone, altrimenti non sarebbero diventati artisti a livello mondiale, che hanno toccato le corde del cuore a tante persone, però... E chiaramente, cioè, non è che ti dispiace perché era, che ne so, il barbiere da cui vai da una vita, che porino muore, e ti dispiace perché comunque con quella persona avevi instaurato comunque un rapporto umano, un rapporto di scambio di vedute, di cose, e quindi se quello è più normale, e ti dispiaccia se ti muore il barbiere che non George Michael, e questo è chiaro. Però chiaramente cosa succede sui social network? Boom, subito tutti che iniziano a postare pensieri, lacrime, le canzoni, e quando, vabbè, io non ci credo, mi dispiace, però sinceramente a queste persone qua che fanno queste cose fingendo una partecipazione, perché chiaramente se uno posta una canzone, chiaramente quello è morto, rest in peace, ci mancherebbe altro, non è mica che uno fa un crimine, questo chiaramente no. Però quelli che poi producono pensieri, ah, perché qui, perché là, ne ho letti svariati, ne ho letti veramente tantissimi in questo, durante questo anno, per l'appunto, con la scomparsa di tantissime di queste persone. E quindi, alla fine, è una cosa un po' così, e va un po' anche di moda essere partecipativi a livello social in questo anno 2.0 che è appena trascorso, partecipando al dolore virtuale mondiale della scomparsa di alcune persone che sono ovviamente conosciute a livello planetario. Ed in effetti è stato un anno funesto un po' anche chiaramente per moltissimi italiani. Mi vengono alla mente i terremoti che ci sono stati nel 2016 nelle zone delle Marche, del Lazio, dell'Umbria, quindi purtroppo gli eventi catastrofici accadono continuamente, e chiaramente magari uno ci fa un po' più caso perché c'è la filastrocca, c'è il tetto, però questa cosa è una cosa che fa parte della vita di tutti, e quindi non c'è proprio da fare grandi considerazioni per il fatto che era un anno bisestile. Bene, detto questo, io, cari amici, l'anno bisestile sta finendo, e con lui sta finendo anche questa 11ª puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Mi auguro che riuscirete a passare un sereno finale di anno e un nuovo inizio dell'anno 2017 molto sereno e molto in armonia con voi stessi e con chi vi sta intorno. Cari amici, dal Vagabondo, buon 2017! Vi saluto, e come sempre, per tutto il prossimo anno il consiglio è: siate saggi!